sono sicura che lei mi abbia aiutato, sia a me che a tutta la squadra, perché abbiamo fatto una buonissima prestazione di squadra. Però purtroppo non c'era e penso che ci abbia aiutato tantissimo e lei è sempre con noi. Sicuramente, sicuramente Simona Senoner, che era la tua grande amica e che, lo ricordiamo, è scomparsa a causa di una meningite fulminante a inizio gennaio, amica e compagna di squadra, ti ha aiutato e ti è stata vicina in quel salto. Più difficile o più facile saltare in due, Elena? Ma adesso è successo, noi non possiamo più andare indietro, purtroppo la vita è fatta anche così. So che era con me e sicuramente mi ha fatto saltare bene e aiutato, è stato più facile.